Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Chi oggi ha comprato il Sole 24 Ore ci ha trovato allegato il rapporto energia piuttosto ampio, questa volta anche perché proprio abbraccia un po' tutto il comparto energetico, dai fossili all'efficienza energetica, passando naturalmente per le rinnovabili. Ne esce insomma una fotografia che discutiamo con Laura Laposta, che è caporedattore del Sole 24 Ore, che appunto ha curato il rapporto energia. Buonasera Laura. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora Laura, intanto oggi ci avete dato una notizia, no? Eh sì, davvero, il fotovoltaico sta raggiungendo quota 9 terawattore e quindi entro la fine dell'anno dovrebbe superare a sorpresa l'eolico. Ecco, qui stiamo parlando non di potenza ma di energia, cioè proprio la quantità di energia prodotta dal fotovoltaico che supera quella prodotta dall'eolico, vero? Proprio così, e sembrava incredibile perché fino al 2009 dal sole si producevano appena 0,9 terawattore e adesso si balza a 9. Certo, beh, poi incredibile fino a un certo punto perché con gli incentivi che c'erano non c'è poi tanto da sorprendersi. A proposito, voi avete fatto una valutazione a tutt'oggi, diciamo, del rendimento finanziario di un investimento in fotovoltaico. Che numeri sono usciti? Sì, è vero, con Enerpoint abbiamo preso dei preventivi veri, abbiamo riscontrato dei rendimenti che sono già sul campo, quindi non teorie ma realtà, e abbiamo visto che per un impianto da 3 kW, quindi per villette per villette sostanzialmente, sì, sì, c'è un rendimento dell'investimento annuo del 12% al sud e del 10% al nord, quindi non male. Direi per niente male, anche perché normalmente, come dire, rendimenti di quel genere si ottengono correndo dei bei rischi, no? Non è che sì, sono rendimenti che lo Stato ti garantisce. Bond. Eh sì, infatti, sono più certi e rendono pure di più. Insomma, è un mercato tutt'altro che agonizzante quello del fotovoltaico, no? Nonostante questo cambio di conto energia. E a proposito ti chiedo, che cosa sta accadendo? Adesso è un mesetto circa che è entrato in vigore il quarto conto energia, come si stanno muovendo gli operatori sul mercato per far fronte ai cambiamenti che ci sono stati? Stanno andando tutti sui tetti, hanno mandato in giro per l'Italia plotoni di scouter che sì, cercano i tetti più grandi e possibilmente quelli con amianto da rimuovere, e stanno pian piano mettendoli tutti sotto contratto, tra virgolette, stringendo proprio in questi giorni accordi di diritto d'uso per accaparrarsi il più possibile tetti grandi, quindi di centri di logistica, interporti, grandi industrie, discariche, capannoni, grandi serre agricole, da mettere sotto contratto, tra virgolette, in maniera tale da creare questi grandi parchi fotovoltaici in suttetti benedetti dalla normativa. Eh sì, infatti, perché ricordiamo che la normativa, diciamo, ha messo un freno agli impianti a terra, ma favorisce molto gli impianti su edifici e in particolare riconosce un premio a chi sostituisce la copertura in amianto con una fotovoltaica. Senti, per quanto riguardano invece le rinnovabili termiche, la situazione è un po' di attesa, no? Sì, si attende il nuovo conto energia termico che è stato annunciato con il decreto numero 28 di marzo e quindi si attende il nuovo regime di incentivi che è stato promesso per settembre, più probabilmente ci hanno detto dal Ministero dell'Ambiente slitterà a ottobre, ma poi comunque dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. E sarà un grande piano che andrà a sostituzione anche purtroppo della meravigliosa misura della detrazione del 55% che invece a dicembre va a scadenza. Questa insomma è la voce che gira, che sparirà questo 55% e dovrebbe essere sostituito con qualcosa, speriamo, perché per alcune operazioni non si vede molto francamente l'alternativa, se pensiamo soprattutto all'efficienza proprio degli involucri per esempio. Circola voce che leghino nel prossimo piano di incentivi l'efficienza degli edifici, quindi piani di ristrutturazione totale degli edifici, al solare termico. Quindi se si effettuano investimenti in entrambe le direzioni si avranno dei benefici di legge molto rilevanti. Eh beh, vedremo come metteranno insieme queste cose, non si capisce ancora bene a questo punto di vista. Ma il risultato qual è dal punto di vista del mercato di questa situazione un po' così a metà? È tutto fermo, l'ha denunciato anche l'industria e si attende soprattutto il nuovo regime di incentivi e quindi per il momento chi può corre a fare il 55%, quindi investendo, chi invece per dicembre non ce la fa Sta alla finestra e guarda cosa succede. Insomma. Sì, sta un po' alla finestra. Ecco, va bene. Senti, le grandi imprese invece, sfumato il nucleare, su cosa si stanno buttando? Ma si butterebbero volentieri sul carbone cosiddetto pulito, che è un carbone meno inquinante con le nuove tecnologie di filtri, soprattutto Enel. E poi, ma comunque ci sono in Italia sono molto frenate dal cosiddetto effetto NIMBY, cioè sì, insomma, not in my backyard, fatelo, sì, ma non vicino noto. A casa mia. Si riguarda tutto questo, non solo sì. L'energia. È vero, è vero. E poi Enel ha annunciato a sorpresa nel nuovo piano industriale presentato un mese fa che per Enel Green Power ci saranno 2 miliardi di euro di investimenti in Italia sulle rinnovabili, meglio tardi che mai. Decisamente. So che c'è un consiglio, invece chiudiamo così, che vuoi dare agli automobilisti che pensano di andare in vacanza oltre frontiera in macchina però. Di cosa si tratta? Sì, di consultare il sito del Ministero dell'Ambiente per vedere se la loro macchina è compatibile con la benzina E10 addizionata con il 10% di bioetanolo venduta in Francia e in Germania, perché non tutti i modelli sono abilitati e questa benzina costa meno all'estero perché è retta da forti incentivi statali, soprattutto in Germania, ma attenzione che per i vecchi modelli non va bene per tutti. Quindi... Insomma, si rischia di restare a piedi e in vacanza, insomma, fa ancora peggio al morale. Va bene, grazie Laura Lapposta. Ciao, grazie a voi. È tutto, a domani.